se ripenso ai tuoi occhi arrossati che di polvere e sabbia si chiudono e tu mi rincorri coi capelli bagnati nel tuo viso e rimpianto di me. Sento il canto di un cigno distratto dalla nebbia che avanza impotente qua giù, vuol strappare dalle dita speranze che una tragica notte ripone. Nella tua mente, Sara, e di schianto la mia vita è fermata da un silenzio che grava nel cuore, che imperante si impone di sé e mi chiede di andare via, ed il conto della vita è segnato e pretende il suo saldo sonante. Mi nascondo in un nido e ninfe di contempo e di andare via dalla tua casa. Dalla deriva prendo e strappo il mio libro di storie che il racconto di un mago mi fece realtà, e mi siedo sul gelido sogno di un reame che dentro di me riporta il silenzio, Sara, e risplendi impetuosa e discendi col tuo passo di danza qua giù. Vedo il cigno arretrare di là, sento musica andare la mia, poi ti prendo per mano e ripenso alla notte fatale che tu catturasti in un'altra follia e mi chiedesti di andare via dalla tua casa, dalla deriva.